Benvenuti sul numero 1 di Alla radice del problema. Oggi si parlerà di primarie. Servono davvero? Forse in un altro paese e con un'altra mentalità politica, sicuramente. Non certo in Italia e con la sinistra che li sta usando in questa maniera. Li usa soprattutto per prendere davvero in giro l'elettore. Ovviamente per gli ideologi e per i tifosi dell'Unione è tutto ok e va tutto bene. Per chi invece guarda la politica con cinismo e sospetto, va tutto così così. Mosca Bianca ieri sera su Confronti, una trasmissione di Rai 2, è stato Giordano Bruno Guerri che ha chiaramente detto ciò che sembrerebbe scottato e che molti sospettano, ovvero che le primarie siano una farsa. Parliamoci chiaro, è il gioco di farsi grandi, di nobilitare un candidato premier senza partito e far finta che esiste una pluralità di idee intorno al centro-sinistra, una pluralità di idee che invece non c'è. Se per caso vincesse Bertinotti, o se questo arrivasse sotto sotto ai voti di Prodi, cosa succederebbe? Potrebbero mai scavalcare i consensi dell'elettorato? Io non credo. Quindi, ecco che le primarie si fanno soprattutto quando due o più candidati partono sullo stesso piano, sullo stesso livello. Poi la coalizione che lascia decidere al cittadino per avere la certezza di un candidato che porta voti. In questo caso, quindi nel caso di queste primarie, si può parlare di un bel gesto che non serve davvero a molto, se non a mettere in evidenza che la sinistra estrema non sottovaluta affatto la propria possibilità di riuscita. E quindi l'imbarazzo di alcuni candidati e soprattutto di molti elettori cresce. Mi sembra che una volta tanto, anche se fa male, bisogna fare il tifo per Fausto Bertinotti, e se dovesse arrivare in alto ci sarebbe veramente da ridere. Bene, finisce qui il numero 1 di questa nuova radio rubrica. Nilo vi saluta dandovi appuntamento alla prossima puntata su Libera al Caffè e sul suo blog network La Radice. A presto a tutti.